La città d'Avorio. C'era una volta, nel grande regno di Palacia, un principe chiamato Principe Marco. Il principe Marco era un uomo molto bello, ma affrontava sempre tutte le cose in modo troppo emotivo, invece che risolverle con la logica. Quando il principe compì 21 anni, il re lo chiamò. Figlio, ora hai 21 anni, il che significa che è tempo per te di conoscere i nostri vicini. I nostri vicini? Sì, un regno è pacifico come i suoi regni vicini. Quindi ho deciso che visiterai il regno della città di Avorio per conoscerlo a fondo. Una vacanza! Eccezionale! Questa non è una vacanza. Devi andare lì come un comune e nessuno dovrà avere il minimo sospetto della tua vera identità. Sarai accompagnato dal figlio del ministro Dan, Sam. Oh, che bello! Io e il mio migliore amico siamo pronti a partire per una missione super segreta. Yippee! Detto questo, il principe Marco se ne andò. Il re mise un sospiro. Mi chiedo cosa sia scritto nel destino di mio figlio. Il giorno successivo, il principe Marco e il figlio del ministro, Sam, partirono per il regno della città d'Avorio. Viaggiarono per giorni attraverso giungle, fiumi e città. Alla fine, si imbatterono in una fitta giungla che segnava l'inizio del regno della città d'Avorio. Sono così stanco, voglio riposare per un po' di tempo. Oh, certo, amico. Siamo comunque alla città d'Avorio. Una sosta per riposare e mangiare non farà male a nessuno. Perché non vai a ruscello e porti dell'acqua? Intanto io preparerò il cibo per noi. Il principe Marco annuì e se ne andò. Quando Marco raggiunse il ruscello, abbassò la borraccia e si chinò per bere un po' d'acqua. Ma mentre stava per farlo, nel riflesso dell'acqua vide un volto così bello che ne rimase incantato. Chi sei? Nel frattempo, Sam, che aveva messo il cibo sulla tovaglia, stava cominciando a chiedersi dove fosse il suo amico. Come mai ci mette così tanto tempo? Marco! Marco! Sam subito corse verso il ruscello, dove trovò il suo amico sdraiato, privo di sensi. Marco? Con un fremito, Marco aprì gli occhi e si sedette immediatamente in posizione verticale. Che cosa? Cosa è successo? Dove è andata la bella signora? La chi? Marco spiegò a Sam cosa era successo. Ho visto il suo riflesso nell'acqua e non appena sono andato a toccarlo ho sentito un forte grido nelle mie orecchie. Era come se fosse una strega. Sam subito capì cosa stava succedendo. Quindi è vero. Che cosa? Di cosa stai parlando? Amico mio, penso che tu sia il prescelto. Il cosa? La leggenda narra che la principessa della città d'Avorio, la principessa Gulitzer, fu rapita da una strega che prese il suo posto nella corte reale. Ma nessuno può esserne assolutamente sicuro, perché non c'è assolutamente alcuna differenza nel modo in cui la principessa appare, parla e si comporta. Perfino il più grande degli eremiti e le fate non hanno saputo dirlo. Bene, allora forse era una menzogna. Beh, questo è quello che anche il re e la regina hanno pensato e hanno continuato con le loro vite. E dopo alcuni anni la gente ha smesso di parlarne e molto presto tutto è stato dimenticato. Fino a cosa? Fino a quello che è successo oggi. Sam spiegò al principe Marco della leggenda che narrava che un giorno un principe, vestito come un uomo comune, sarebbe venuto nel regno della città d'Avorio e che solo ai suoi occhi la principessa sarebbe stata visibile e solo dalle sue orecchie il grido di una strega sarebbe stato udito. Se questo è vero, allora dobbiamo andare subito dal re della città d'Avorio e dirgli tutto. Non così in fretta, mio principe. Dobbiamo pensare in modo logico. Ho un piano. E così, secondo il suo piano, Sam e il principe Marco andarono in una casa nella città d'Avorio, dove viveva una signora chiamata Vecchia Racket. Vecchia Racket era una donna molto avida e Sam aveva sentito parlare di lei da uno dei suoi amici che aveva visitato la città d'Avorio qualche anno prima. Sam bussò alla porta e uscì Vecchia Racket. Sì? Io e il mio amico veniamo da un regno lontano e saremo qui nella città d'Avorio per i prossimi 2 giorni. Saresti abbastanza gentile da ospitarci? Ti pagheremo profumatamente. Oh cielo, è passato un po' di tempo da quando ho visto così tante monete d'oro tutte assieme. Venite dentro, sentitevi a casa. Più tardi quel giorno, mentre serviva il cibo al principe Marco e a Sam, la vecchia Racket disse: ora, questo è tutto ciò che ho per adesso. Mangiate e per cena vi porterò qualcosa di delizioso dal palazzo. Il palazzo? Sì, il palazzo. Oh, non lo sapete? Sam e il principe Marco finsero. Sapere cosa? Beh, lavoro al palazzo. Sono la cameriera personale della principessa Coliser. Le faccio i capelli tutti i giorni. Io sono una persona molto importante. Ho sentito che è la donna più bella di tutto il mondo. Bene, quanto siamo fortunati ad essere tra persone così importanti. Ascolti, signorina Racket, sarebbe così gentile da farci un favore? Beh, certo. Chiedi, forza. Sam tolse dalla tasca un ciondolo di diamanti e glielo diede. Ecco, dia questo ciondolo alla principessa Gulizer e le dica che io, il principe di Palacia, il principe Marco, le ho chiesto di unirsi a me in matrimonio. A questo punto, il principe Marco si accigliò e la vecchia Racket rise. Tu? Un principe? Sam inarcò le sopracciglia e immediatamente tolse la corona del principe Marco dalla sua borsa. Vedendo la corona, Racket rimase a bocca aperta, si inchinò immediatamente e corse fuori. Che cosa stai facendo? Lo vedrai. E dove stai andando? A comprare un regalo per la principessa. Non aspettarmi, farò tardi. Quando la vecchia Racket andò al palazzo, diede il pendente di diamanti alla principessa Gulizer e le disse tutto. Un sorriso malvagio apparve sul suo viso. Vai subito e digli che lo invito per la cena di domani. La vecchia Racket annuì e se ne andò. Il giorno successivo, su invito della principessa, Sam e il principe Marco andarono a palazzo. Sam era vestito come un principe, mentre il principe Marco era vestito come un uomo comune, con in mano una scatola. La principessa Coliser fece finta di essere colpita nel vedere Sam. Si salutarono e la principessa lo presentò ai suoi genitori, che erano molto contenti di vederlo. Durante la cena, Sam chiese casualmente: ehi, perdonatemi se chiedo, ma non è un po' strano che non ci siano animali nel vostro regno, ad eccezione dei cavalli? Beh, Gulizer pensa che gli animali appartengano alla giungla, quindi abbiamo dovuto mandarli tutti via. Fortunatamente per me ci ha lasciato tenere i cavalli. Oh, questo è così sfortunato, perché è ciò che ho preso per la principessa. Sam batté la mano e il principe Marco si fece avanti con la scatola. La aprì e da essa saltò fuori un gattino carino. La principessa Coliser balzò in piedi urlando. Fece un passo indietro, ma il gattino continuò a camminare verso di lei e presto le toccò una gamba. Immediatamente, la vera forma della strega venne fuori quando l'abito della principessa Coliser cadde per terra. Tutti rimasero scioccati. Guardie, catturatela immediatamente. e impotente di fronte ai gatti. Le guardie catturarono immediatamente la strega e la portarono via. Abbiamo cresciuto una strega in tutti questi anni. Oh, siamo stati così sciocchi. Bene, non essere così duro con te stesso. Abbiamo qui con noi il vero principe di Palacia, il principe Marco. E lui è il prescelto. Sam spiegò tutto al re e alla regina. Rimasero scioccati nel sentire tutto quanto. Quindi stai dicendo che c'è speranza? Il principe Marco e Sam annuirono e presto fu portato una grande vasca piena d'acqua. Ora ricorda, solo tu puoi vedere il suo riflesso nell'acqua. Quando toccherai il riflesso, sentirai le forti urla della strega. Se riuscirai a resistere, l'incantesimo della principessa si spezzerà e tornerà dalla nostra parte del mondo. Ma non avrei potuto farlo prima a ruscello? Avresti potuto, ma la strega se ne sarebbe accorta e avrebbe giocato qualche trucco prima che raggiungessimo il re e la regina. Sai, Sam, sei la persona più intelligente che abbia mai conosciuto. Sam sorrise. Ora vai a prendere la tua principessa. Non appena il principe Marco si chinò sulla vasca, vide il riflesso della principessa Gulliser. Appoggiò il palmo della mano sulla superficie dell'acqua e subito un forte grido risuonò nelle sue orecchie. Il principe Marco chiuse gli occhi e si tenne forte. Dopo poco, le forti grida cessarono e fra scintille brillanti uscì dall'acqua la principessa Gulliser. Vedendola, il re e la regina corsero e l'abbracciarono. Madre! Padre! Oh, bambina mia! Oh, grazie al cielo, stai bene! Voglio dire, grazie a questi uomini! Il re e la regina spiegarono tutto a Gulliser. Lei guardò il principe Marco e sorrise. Mi hai salvata! Non potrò mai ringraziarti. Oh, per favore, no. Amici? Sì. E così la principessa Gulliser e il principe Marco divennero amici. Con loro i due regni iniziarono altri piani commerciali e divennero vicini felici. Ma si sono sposati? Beh, non lo sappiamo. Ma sappiamo che Sam è stato nominato consigliere reale del re Marco e che con loro due Palacia è divenuto il miglior regno del continente.